Non posso quantificartelo economicamente, però io credo che il danno d'immagine qui sia straordinario, perché poi alla fine si fa anche abbastanza di tutto un'erba un fascio. È pur vero che non si è mai responsabili delle azioni di un singolo, perché è evidente che non si possa colpevolizzare la squadra in questo senso. Però mi sembra che il calcio in questo momento stia un po' strecciando, no? Questo concetto di così, una reazione violenta. Tout court, che sia sugli spalti, che sia in campo, tra i giocatori, se poi adesso anche gli allenatori perdono la pazienza, la vedo veramente dura.